ti invita Giuliano. Infatti, poi ho detto, ma che strano, siccome io non ho il numero di nessuno delle mamme. Invece se sono andati che lei è andata senza niente, cioè con la felpa e con il giubbottino, il grembiule e boh. Questo 27 aprile, io mi ricordo questo 27 aprile, boh. Cerca di chiamare, ma stava a chiamare qualche mamma adesso, anche adesso, a quest'ora, chiami qualche mamma a vedere come sono, cosa devo fare. Non ne ho delle mamme di Marti Giulia. Non ne conosci nemmeno una. Numeri di telefono non ne ho. Ma penso che avrebbero messo la comunicazione nel quaderno, no? Mi la roba, ci sentiamo dopo, da. Ciao Giuseppe, ciao, dimmi due. Buonasera, Claudia. fare niente, per di più sono anche raffreddato. Scusa le scene un attimino. Ascolti a me da Trentino, Claudio. Come ti ascolto da Trentino, Santiago 9, Radio 5. Esatto. Allora, B2. Buonasera, Giuseppe, ti sei sentito, vanno fatto gli scurci poco poco. Papà, eia, non è che sia molto bellina quella radio, B2, la sento un po' cuffa, confermi qua. È cuffa bassa, boh, non c'è tonalità, nulla, no. Segnale buono qua, però la radio è molto bassa. Se fosse stato a 4, non lo avrei mai domenica. giustamente bisogna comprare quei due cosi, uno dell'apparato e uno del microfono, dunque bisogna cambiare quella cosa là, invece di essere a 5 e metterlo direttamente a 4, hai capito? Ferma, sì, fermo, vabbè, poi se domani mattina sono impegnato, scendo da sorso, devo portare roba di lavoro, relazione, guarda varie, domenica mattina già sono libero. Vediamo un po' se utile. Per fare tutto quel lavoro mi serve la radio, il microfono, cavo alimentazione. E purtroppo posso anche fare nessun problema. Mario! Dimmi Dani! Ascolta! Devo mettere il filtro qua nella corrente. Quello per fare l'impianto, lo stesso filtro che si usa per l'impianto serio della macchina, ma per lo stesso. Perché quando sono in tiro, cioè in accelerazione, mi fa riguardo, capito? Il condensatore ci vuole solo l'alternatore. Ma il condensatore non arriva a quello lì? Il condensatore normale, il condensatore da V, prendilo da 600, da 800 microfarad, di quelli grossi, per macchina, di quelli dell'alternatore. E glielo metti tra il positivo e il negativo dell'alternatore, tanto è quello che fa casino, capito? Ciao. Sono su internet.